Allora, lei è conosciutissimo in Italia, ma forse un po' meno in Germania. Come le piacerebbe essere presentato al popolo tedesco? E come un giornalista, punto e basta. Nient'altro. E poi sfatiamo subito un mito, e cioè Marco Travaglio non è un giornalista di sinistra. Sì, nel senso che personalmente sono sempre stato un liberale, ma questa insistenza che c'è sul fatto se uno è un giornalista di sinistra o un giornalista di destra mi dà un po' fastidio, perché non credo che ci sia un modo di sinistra per fare giornalista, un modo di destra per fare giornalista. Uno fa giornalista e basta, poi quando va a votare vota per quello che gli sembra meglio, nel caso italiano il meno peggio. Però francamente non mi sono mai posto il problema se quello che scrivo è di sinistra o di destra, anche perché non essendo abituato a scrivere le mie impressioni, ma essendo più abituato a raccontare dei fatti, vedo che tutto sommato quando uno racconta dei fatti in buona fede va d'accordissimo, sia con chi è di destra sia con chi è di sinistra, l'importante è la buona fede. A proposito di sinistra e di destra, su questo insisterò un attimo, in una delle sue ultime canzoni Gaber spiegava la differenza fra destra e sinistra più o meno dicendo: il bastardo è di sinistra e il figlio di buona donna è di destra. Lei cosa ne pensa? Si può veramente parlare ancora in Italia di destra e di sinistra? No, sostanzialmente no, perché... ma non perché non abbia un senso oggi dividere le persone di destra e sinistra, avrà sempre un senso, ci sarà sempre una parte più, voglio dire, più proiettata sull'interesse dell'assistenza dei più deboli, invece una parte più proiettata nei confronti del primato del mercato e quindi dei più bravi. Ma al di là di questo in Italia non se ne può più parlare, perché in Italia Berlusconi ha sconvolto il panorama politico italiano. Io non ho mai pensato che Berlusconi sia di destra. Berlusconi sta a destra perché dall'altra parte è occupato, ma altrimenti potrebbe stare benissimo anche a sinistra. Berlusconi, come diceva Montanelli, che è l'uomo che lo ha conosciuto e soprattutto lo ha capito meglio, non ha idee, ha interessi. Faceva affari con l'Unione Sovietica nel campo pubblicitario, con la TV dell'Unione Sovietica a metà degli anni Ottanta, quando l'Unione Sovietica era ancora l'Unione Sovietica e il muro di Berlino stava in piedi, e non si è mai posto dei problemi. È uno che va da Blair e dice: io sono socialdemocratico, quindi non è di destra, è uno che fa così per... va d'accordissimo con un ex agente del KGB come Putin, ha imbarcato un sacco di comunisti e pentiti nel suo schieramento. Non gli ho mai sentito fare un discorso filosofico, politologico, nel quale spiegasse i moventi ideali della sua scesa in campo. La sua scesa in campo è una scesa in campo obbligata da problemi giudiziari e aziendali, tutto sommato. Lui è lì per non andare in galera e per salvare il suo monopolio incostituzionale delle televisioni, ci è riuscito finora, quindi da questo punto di vista ha sempre vinto, anche quando ha perso le elezioni. A lui stare all'opposizione non dà nessun fastidio, l'importante è che gli altri gli tutelino i suoi interessi, visto che gli altri in Italia, cioè la cosiddetta sinistra, ha sempre tutelato al meglio gli interessi di Berlusconi, lui vive tranquillo finché non glieli toccano. In questo modo mi ha appena risposto anche alla prossima domanda, che diceva appunto: quant'è la distanza politica tra Berlusconi e D'Alema? Ma sono due persone molto diverse, nel senso che D'Alema invece è un politico fatto e finito, cresciuto alla scuola del vecchio partito comunista, ha tutti i tratti del vecchio comunista, non ha più gli ideali del vecchio comunista, ma gli sono rimasti tutti i vizi e le prassi. Dato che il vero dirigente comunista è un personaggio spregiudicato, che è in grado di vendere sua madre se conviene al partito, D'Alema è esattamente un personaggio assolutamente spregiudicato, che per il potere ha fatto i peggiori compromessi con Berlusconi. Nel suo ultimo libro lei racconta di... ed è disposto a rifarli se si ripete l'occasione. Ah, va bene, staremo a vedere. nel suo ultimo libro lei racconta di vari modi in cui si può nascondere, fra virgolette, l'informazione, porta anche parecchi esempi. All'estero, perlomeno qui in Germania, si tende a pensare che in Italia, passato Berlusconi, la situazione si sia normalizzata. È così? No, assolutamente. Che Berlusconi non passa. Semmai passa all'opposizione, ma non passa. E Berlusconi controlla la metà del Parlamento italiano e in certe occasioni, cioè quando si tratta dei suoi affari, l'impressione è che controlli anche una parte della maggioranza. Tant'è che mai da quando lui esiste, anche prima che lui entrasse in politica, mai è stato possibile nel Parlamento italiano approvare una legge che non, nelle materie di sua competenza, che non gli garbasse. Quindi Berlusconi legifera indirettamente o direttamente in materia televisiva dagli anni 80, dai primi anni 80. E questo spiega molte cose, per cui l'unico modo per poter dire che Berlusconi è passato è costringerlo alla scelta a cui sarebbe stato costretto in qualunque altro paese del mondo, cioè a decidere o di lasciare la politica e di tenersi la roba, oppure di vendere la roba e di restare in politica. E anche se si dovesse ritirare dalla politica, imporgli comunque un tetto antitrust, visto che è eccessivo anche per un privato cittadino quello che lui possiede. E dato che questo non è all'orizzonte, nel senso che non esistono nemmeno progetti da parte del centro-sinistra di questa natura, ma il centro-sinistra ha stabilito che il conflitto di interessi si materializza soltanto quando lui va al governo, dato che lui è all'opposizione, attualmente non, a loro va bene così. E si accorgeranno che è una presenza troppo ingombrante anche dall'opposizione per poter restituire il paese alla normalità. Ritornando un po' al discorso generale del suo libro, al momento attuale quali sono secondo lei le due o tre cose più importanti in Italia di cui si trova il modo di non parlare? Beh, dunque la prima è sicuramente è il problema irrisolto del rapporto fra la mafia e la politica. La mafia ha suoi rappresentanti in Parlamento, del resto mi meraviglierei del contrario, visto che comunque è la prima azienda del sud Italia e controlla patrimoni tali che è impensabile che non abbiano degli sbocchi politici. E dato che la Seconda Repubblica in Italia è nata sulle bombe della mafia, bombe che appartengono a una strategia politica raffinatissima che la mafia da sola non avrebbe mai potuto concepire, pensiamo solo alle bombe a Milano o a Firenze, Dottorina non sa neanche dove stanno, il padiglione di arte moderna di Milano, via dei Georgofili, quindi sono bombe politico-mafiose e noi tutto il cotè politico di quella strategia che ha improntato la nascita della Seconda Repubblica non conosciamo niente, perché si è deciso di bloccare le indagini con precise controriforme che hanno tagliato le mani ai magistrati e di rimuovere completamente dall'orizzonte questo problema, quello dei mandanti esterni delle stragi. Noi ci occupiamo molto più delle stragi degli altri che non delle nostre. Noi siamo preoccupatissimi per Al-Qaeda, che in Italia non ha mai fatto esplodere un petardo, mentre invece non abbiamo mai siamo mai occupati di sapere chi ha messo le bombe nel 92-93, salvo quelli che hanno proprio spinto il bottone. Questo è un tema. Ed è un tema che è in grado di far saltare chiunque ne parli in televisione. Io ne so qualcosa perché ne ho parlato in un programma satirico e chi ha condotto quel programma ancora non ha potuto mettere becco in televisione, cioè Daniele Luttazzi. E un altro tema è quello dei rapporti tra il malaffare e la politica, il tema della corruzione. Cioè della Tangentopoli di oggi è totalmente inesplorato per il grande pubblico, non c'è nessuno che ne parla, salvo pochissimi casi ridotti appunto con la tecnica, quella di sinistra, quindi mente, ridotti quasi al silenzio o comunque devitalizzati nella portata delle loro dichiarazioni, per il resto sono temi di cui la politica non parla, pur cause, ma di cui non permette nemmeno che si parli nel principale mezzo di informazione che è la televisione. Il terzo tema di cui non si parla è la misteriosa missione italiana in Iraq e in Afghanistan. C'è un tema che appassiona gli media e la politica americana, i media e la politica inglese, eccetera. Da noi non sono oggetto di nessun tipo di discussione. Chiunque ne parli viene immediatamente etichettato come antiamericano, estremista, di sinistra. Se uno chiede cosa stiamo facendo in Afghanistan, per esempio, già viene guardato come uno della cosiddetta sinistra radicale, non si ammettono proprio domande, non discussioni. È un tema i nostri rapporti con gli americani, il fatto che gli americani stanno raddoppiando una base a Vicenza e il governo, senza interpellare i vicentini, ha deciso che va bene così, non può parlarne proprio, sono assoluto tabù. E poi che altro? Un altro tema del quale non si è parlato mai in questi anni è quello della situazione sociale esplosiva che si è venuta a creare in Italia con un governo che per 5 anni ha arricchito i ricchi e ha impoverito i poveri. Per esempio, un altro tema, la sparizione del ceto medio, la precipitazione degli ex ceti medi nei ceti bassi, l'esistenza comunque di una classe operaia, di gente che non evade le tasse perché semplicemente non può evaderle, e specularmente l'esistenza di una upper class che ormai accumula ogni anno 200 miliardi di euro di denaro illecito, evadendo le tasse, semplicemente evadendo le tasse, senza andare a contare le enormi fortune messe da parte dalla criminalità organizzata. Quindi questi sono tutti temi che sono completamente fuori dall'agenda televisiva e quindi anche di riflesso della politica e della carta stampata. Una cosa di cui invece in Italia si parla molto, perlomeno questa è l'impressione vista da qua, sono questi delitti morbosi. Esatto, tipo Cogne, questa è l'ultima strage di Erba, ma veramente solo questi delitti di cronaca nera fanno audience? No, semplicemente sono le uniche cose di cui si può parlare, sono quelle che Sabina Guzzanti chiama armi di distrazione di massa, cioè servono a riempire la testa della gente svuotandola di altri argomenti che invece potrebbero entrarci. È chiaro che il giallo, il thriller ha sempre il suo fascino, soprattutto se si basa su un fatto vero, ma il fatto che la cronaca nera, la neraccia che una volta stava nei giornali più malfamati, più bassi, sia diventata il tema predominante dei principali programmi di approfondimento giornalistico, o almeno quelli che vengono considerati tali, è abbastanza significativo. Insomma, c'è sempre stato questo voyeurismo del sangue, però limitato, diciamo, a fasce di voyeur, no? Proprio analfabeti di ritorno, e adesso invece è diventata un argomento del quale si parla ogni giorno in prima serata, dove si fanno e si rifanno i processi negli studi televisivi, quindi si parla di questo per non parlare di tutto il resto. Questo è tipico, il caso del delitto di Cogne, che Bruno Vespa ha trasformato in un evento epocale, non si presta ad altre interpretazioni. 50-60 puntate sul delitto di Cogne, 0 puntate sul processo Andreotti. Nessuno sa come è finito il processo Andreotti, cioè nessuno sa che è stato governato da uno che la Cassazione ha ritenuto mafioso fino al 1980, prescrivendo il reato che era stato commesso, così scrivono i giudici, mentre tutti sanno che pigiama portava la signora Franzoni il giorno in cui è morto suo figlio. Si dice che ogni paese abbia più o meno la classe politica che si merita. Si può fare questo discorso anche per il giornalismo? L'Italia ha la classe giornalistica o il giornalismo che si merita? Ma è sempre il cane che si morde la coda, perché se tu abitui il pubblico a mangiare merda, alla fine troverà normale mangiare merda. Se però tu ogni tanto gli dai anche un cioccolatino, capiscono che il cioccolatino è meglio della merda e, potendo scegliere, preferiscono. In Italia non c'è scelta. C'è scelta nei giornali, naturalmente, ma parliamo di una ristretta fascia. Io non sono preoccupato di coloro che leggono i giornali, perché per quanto pessimo sia un giornale, comunque certe notizie è tenuto a darle. Persino il giornale di Berlusconi non può tacere le notizie, perché poi uno alla lunga dice: vabbè, compro il Corriere della Sera, compro il Tempo, compro il Carlino, cioè, quindi io sono preoccupato invece da coloro che non aprono i giornali e che guardano la televisione, perché quelli non hanno mai potuto scegliere negli ultimi anni, almeno, e quindi si sono convinti, per esempio, che l'informazione sia Bruno Vespa. C'è molta gente che è convinta che Bruno Vespa sia un giornalista, mentre ha un altro ruolo importante, ma non è quello del giornalista, è quello del press agent dell'intera classe politica. È una specie di portavoce dei partiti, di tutto il potere, ecco, questo è il suo ruolo, ma non c'entra niente con il giornalismo. La ringrazio. Prego.